tutto è nato da un'iniziativa di diverse associazioni francesi che hanno coinvolto anche ASGI, quindi l'Associazione sui diritti sull'immigrazione di cui sono membro, in quanto queste associazioni intendevano portare davanti a un giudice la scelta del governo di finanziare la Guardia Costiera Libica, in quanto ritenevano che fosse contrario ai doveri di rispetto dei diritti fondamentali che incombe su tutti i governi europei. È stata una vicenda giudiziaria complessa, nel senso che il primo grado è stato negativo alle associazioni, in quanto il Tribunale aveva riconosciuto un interesse politico in capo al governo che precludeva al Tribunale di decidere. Era poi iniziato il giudizio d'appello quando è intervenuta la decisione del governo. Quindi questo percorso giudiziario, che era ancora in fase di svolgimento, è stato comunque decisivo per spingere il governo francese a ritirare questo finanziamento, motivando espressamente sulla impossibilità di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo in Libia e quindi sulla necessità di non collaborare con organizzazioni che violano i diritti fondamentali. Quindi un risultato molto importante anche al di là della Francia, perché, come ben sanno gli ascoltatori, l'Italia da anni collabora con denaro, forniture di mezzi con la Guardia Costiera Libica, nonostante si sappia quali sono i crimini che la Guardia Costiera Libica commette nei campi di detenzione. Quindi potrebbe essere un segnale anche per altri paesi europei a interrompere queste forme di collaborazione. Sappiamo che invece l'Italia da poco ha rinnovato l'accordo con la Libia, quindi, come dire, l'esperienza francese può esserci d'aiuto per cambiare anche queste politiche? Forse sì, forse è troppo ottimistico sperare che questa decisione possa avere incidenza in maniera diretta sul governo italiano, però credo che sia un segnale importante. È un segnale importante che un governo come quello francese non vuole più avere nulla a che fare con organizzazioni come la Guardia Costiera Libica, che sono addirittura indagate per crimini contro l'umanità. Credo che sia importante ricordare che di fronte alla procura presso la Corte Penale Internazionale, quindi la Corte che si occupa dei più gravi crimini contro l'umanità, genocidi, è in corso un procedimento proprio a carico di questi soggetti, la Guardia Costiera Libica, per le condizioni assolutamente disumane in cui vengono trattati gli stranieri nei campi di detenzione in Libia. Ecco, l'idea che il governo italiano, nonostante si sappia l'atrocità di quello che avviene in Libia, continui imperterrito la collaborazione con questi soggetti è davvero un qualcosa che dovrebbe indignare l'opinione pubblica, cosa che purtroppo non è avvenuto in Italia. Questo segnale della Francia forse può essere, appunto, senza voler essere troppo ottimistici, però un segnale che possa magari far ripensare un po' questa strategia. Più in generale, a livello europeo sembra che il tema migratorio non sia più al centro dell'attenzione come magari fino a qualche mese fa. Sì, purtroppo si tratta sempre di fasi così legate alle contingenze politiche o anche alle contingenze stagionali. Adesso questo è un periodo d'inverno in cui ci sono flussi meno intensi di arrivi che in altre stagioni, quindi sembra che ci sia meno attenzione. Però comunque è da segnalare, a mio avviso, almeno un aspetto che può essere considerato, credo, positivo, che effettivamente con gli accordi che erano stati siglati a Malta con Francia, Germania, Malta per la redistribuzione dei migranti che arrivano sulle nostre coste, era dato di ieri che sono stati effettivamente realizzati, quindi vengono effettivamente operati questi trasferimenti. Questo è importante perché quando era il governo precedente, e vi era quindi l'inizio degli interni Salvini, è emerso come gli accordi che venivano siglati in realtà poi non venivano realizzati, perché questa contrapposizione così forte, questo continuo insultare i partner europei da parte del ministro, aveva poi come conseguenza sostanzialmente una inazione degli altri paesi. Adesso il clima è cambiato e gli altri paesi sembrano volere cooperare di più nella gestione di questo fenomeno. Anche qui non c'è da farsi troppe illusioni, non c'è da essere troppo ottimisti, però forse può essere un segnale in una direzione positiva.